Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori, e quindi saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto anche ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi raccontiamo una vicenda di quelle che capitano quando si decide di fare una vacanza, perché poi i problemi possono sorgere un po' dappertutto, no? Sia nel viaggio che nel posto dove si arriva, e questa volta raccontiamo una vicenda particolare. Sì Francesco, sai che in questo periodo ne avremo tante da raccontare sulle vacanze, sulle disavventure vissute da molti vacanzieri. Le racconteremo magari con il tempo, anche per ricordare che comunque ci sono varie tutele per chi va in vacanza e subisce dei disagi e dei disservizi. Le stesse tutele che proponiamo, abbiamo proposto a un professore di Mestre che è molto avvezzo anche ad andare in giro a farsi dei bei tour in bicicletta, è stato in Nepal, è stato in Madagascar, anche facendo anche diciamo azioni di solidarietà. In questo caso aveva organizzato tre belle settimane in Norvegia, doveva andare da Bodo a Capo Nord, un viaggio meraviglioso ovviamente, e tutto in bicicletta con la tenda, aveva organizzato tutto come sempre con precisione, e il giorno della partenza ha portato tutti i bagagli all'aeroporto di Venezia, è salito, però purtroppo quando è arrivato all'aeroporto norvegese ha scoperto suo malgrado che le valigie c'erano, ma quello che mancava era la bicicletta. Fondamentale, sì. Fondamentale ovviamente per la sua vacanza impegnativa, questo suo tour verso Capo Nord. Chiaramente si è subito mobilitato tra mille disagi, quindi si è informato tramite l'aeroporto veneziano, ha scoperto che la bicicletta in effetti non era stata caricata sull'aereo della compagnia norvegese, la quale gli ha assicurato che l'avrebbero caricato sul volo successivo due giorni dopo, e quindi diciamo che il professore con pazienza ha deciso di rimanere qualche altro giorno ad Oslo in attesa della sua bicicletta per poi partire. In realtà la bicicletta non è arrivata, dopo cinque giorni il professore ha deciso di tornare anticipatamente indietro, e fortunatamente una volta tornato a Mestre ha scoperto che in realtà la sua bicicletta era arrivata in Norvegia, però essendosi staccato il nastro della rintracciabilità praticamente era finita nel dimenticatoio in un magazzino là in Norvegia, e insomma solo grazie dopo varie peripezie il professore è riuscito a recuperarla, certo con l'amaro in bocca per non aver potuto affrontare il suo viaggio, la sua avventura verso il Capo Nord. Ecco, in questo momento il professore ha deciso di rivolgersi all'Adico, perché ovviamente ha affrontato delle spese extra che noi siamo andati a richiedere alla compagnia norvegese. In particolare ricordiamo che il professore ha dovuto comunque alloggiare in un albergo, cosa che non avrebbe fatto, certo, se avesse avuto la sua bicicletta, perché appunto era sua intenzione quella di dormire in tenda, e chiaramente ha dovuto anticipare il ritorno, quindi ha avuto delle spese extra che si aggiungono attorno al migliaio di euro, e chiaramente rientra totalmente nel suo diritto ottenere questo rimborso, visto che il disagio non è imputabile a un suo errore, a qualche sbaglio da parte sua, ma proprio a un errore da parte della compagnia aerea norvegese. Ecco, quindi vicenda questa che abbiamo raccontato e che adesso dovrà vedere gli ulteriori sviluppi anche grazie alla partecipazione attiva dell'Adico, no? Staremo a vedere se poi cosa risponderà la compagnia norvegese. Sì Francesco, ci attendiamo chiaramente una risposta positiva. Vogliamo ricordare, è importante a tutti i viaggiatori, che le tutele per chi viaggia ci sono, sia per chi viaggia in aereo ovviamente, ma anche per chi per esempio va a stare in una struttura diversa rispetto a quella prospettata, chi subisce dei disservizi vari. Ricordiamocelo, non molliamo, in tempi molto brevi dal disservizio, dal problema, rivolgiamoci appunto a un'associazione come la nostra, perché l'intervento rapido è anche l'intervento che ti assicura quasi sempre la possibilità di ottenere adeguati rimborsi, adeguati risarcimenti. Ricordiamo che come Adico stiamo anche ricevendo dei risarcimenti per vacanza rovinata, che vanno oltre a, appunto, a dei rimborsi legati a dei disservizi concreti, ma si legano allo stress psicofisico subito dalla persona che chiaramente va in vacanza per rilassarsi e torna a casa più stressato di prima a causa, appunto, di varie vicissitudini negative. Quello che è successo chiaramente al professore, per il quale noi, oltre chiaramente al rimborso per le spese vive, siamo andati anche a chiedere un risarcimento proprio per il danno, chiamiamolo così, tra virgolette, morale subito per non aver potuto affrontare la vacanza che ha organizzato. Certo, va bene. Allora, ricordiamo che il sito è sempre quello, www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate i contatti e la possibilità, insomma, di anche scoprire tante cose che state seguendo sulle numerose notizie del vostro sito. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo martedì prossimo, non ci sarò io, ma ci sarà Mirko Cavallin a intervistarti. Grazie a te, Fran. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.